se tu andrai a San Francisco, raccogli un fiore e portalo con te. C'è una ragazza a San Francisco che se tu vuoi lo accetterà per me. Apri il tuo cuore a San Francisco e tu riavrai l'amore che darai. Io sono stato a San Francisco ed io so già quello che troverai. Oh, quanti occhi pieni di sorrisi, ovunque guardi. Sentirai il profumo nelle strade e nell'aria di un mondo nuovo, di un mondo nuovo. E se tu andrai a San Francisco, raccogli un fiore e portalo con te. C'è una ragazza a San Francisco che se tu vuoi lo accetterà per me. Se tu andrai a San Francisco, raccogli un fiore e portalo con te.